Prima voglio salutare il sindaco di Treviso, Giampaolo Gobbo. Dunque siamo in casa Lega. Lega, Sì, buongiorno Gobbo. buongiorno, buongiorno dottor Milan, buongiorno agli ascoltatori. Senta, anche se lei non è in Parlamento, glielo chiedo di Lusi, perché sa che Lusi ha tirato in ballo la Lega, ha detto accidenti, avrebbero fatto mancare il numero legale, anche gli amici proprio mi hanno tradito. Non so se... Ma non so che amici, non so, non sono presente, ma io credo comunque che un partito deve vedere alle proprie logiche e a quello che porta avanti. Il caso Lusi certamente l'abbiamo sentito e credo che anche si sia definito ben chiaramente che noi eravamo appunto per l'arresto, ma non tanto per l'arresto fine a se stesso, ma per riprendere una certa logica dove chi è in Parlamento e in Senato deve essere uguale Agli al altri. In cittadino, passato quindi però non. non era così, cioè è la prima volta che il Senato, No. perché Papa è stato, no, voglio dire, la prima volta per reati non di No. sangue, eccetera. Papa è stato messo in carcere dalla Camera, ma che il Senato voti l'arresto di uno così, insomma. Allora intanto il Senato non è una questione la prima volta e comunque sì, ma comunque allora cerchiamo di fare un discorso un po' più credo organico. Il cittadino credo gli interessi relativamente che Lusi vada in carcere o meno. Il discorso è che oggi come oggi la gente ha assolutamente bisogno che ci sia un freno a tutte quelle che sono le situazioni, diciamo di malcostume, le situazioni di corruzione, le situazioni che si sono purtroppo generate in questi anni. Per cui credo che il significato di questo sia proprio in quella logica di giustizia, chiamiamola, Sì. Senta, che in effetti questo Stato ha assolutamente bisogno. le chiedo questo, ma uscire dall'euro è davvero una bestemmia? No, Tipo... assolutamente, ma l'abbiamo detto anche in tempi non sospetti. Cioè, si Noi può uscire crediamo. dall'euro, secondo lei? Io le spiego. Allora, credo si stia valutando e stiamo anche verificando. Per nulla è uscito proprio sul Financial Times un articolo molto interessante sul discorso dell'Europa delle economie, cioè dei popoli e delle regioni basate soprattutto sulle economie. Dove si dà ragione a Bossi, a quello che diceva Bossi 20 anni fa sulle macro regioni, sulla Padania come super regio economica inserita in un contesto europeo importante. E quindi credo che non dico adesso uscire dall'euro o meno, ma quantomeno riverificare e reinserire quelle regioni, quindi con quelle potenzialità che hanno di produttività, di lavoro, eccetera. E con magari una doppia moneta, una moneta più forte e una moneta più debole, per poter C'è che incentivare eventualmente anche il Beh, lavoro intanto delle mi altre. faccia capire, no, l'articolo l'abbiamo letto, è stato preso anche dalla Lega e da Bossi per fare, insomma, proclami trionfalistici sulla secessione, cioè il Financial Times non è che si è proprio ispirato a Bossi, però ha detto No, no, ma appunto per l'Europa delle questo. macro regioni e ha detto ci vuole un euro magari che coinvolga fino al nord Italia, diciamo fino a Roma. È quello che sto dicendo, ma Infatti. infatti, ma è Ma anche che una vuol dire le direttiva due europea, monete? No, le due no? monete me lo spieghi, cioè cosa vuol dire? Ci vorrebbe un euro e anche parzialmente il ritorno alla lira, giusto per capire in Italia. Può essere anche questo, ma il concetto oggi di doppia moneta bisogna verificarlo anche su quello che è il debito, perché è evidente che se si dovesse fare la doppia moneta l'Italia raddoppierebbe il debito, nel senso che ritornando non è che tu lo dimezzi, ma lo raddoppi purtroppo, e quindi questo è un ulteriore problema. Comunque è tutta una verifica che si deve Ma assolutamente anche fare. perché Il sarebbe concetto, mi scusi, una secessione dell'Italia di fatto, cioè voglio dire due monete. volevo però sottolineare un concetto sul discorso delle regioni europee, cioè c'è una direttiva proprio che cerca di amalgamare, è una direttiva europea che parla appunto di regioni economiche, che cerca di amalgamare secondo determinate caratteristiche più regioni europee al di là dei confini degli stati nazionali. Addirittura per la sanità, credo proprio il 28 di giugno ci sarà una firma congiunta fatta anche dalla Svizzera, quindi in situazione non solo europea, ma certamente sì, non solo della UE, diciamo, ma certamente europea. Sì, però magari quindi... un conto sono questi temi qui, però Gobbo, mi scusi, un altro conto è fare, che ne so, due monete, l'ipotesi di due monete, oppure di una di un nord Italia, diciamo fino a Roma, che fa parte dell'eurozona, e il sud no, cioè vorrebbe dire la secessione, il crollo della ma nazione Italia. Ma mi scusi. Allora, intanto il discorso qua non vedo quali angosce ci debbano essere in situazioni di cosiddetta secessione, se è una secessione morbida, come da resto è avvenuta ad esempio in Cecoslovacchia, dove che in che vuol dire la secessione morbida? Ma in una secessione dove non ci siano contrasti, ovviamente, che creino delle guerre civili o delle situazioni particolari. Cioè lei auspica una secessione, senza, ma senza contrasti, senza guerre. Io le spiego. Secessione morbida. Se si ferma, diciamo, l'economia, come purtroppo sta succedendo proprio anche dalle nostre parti, perché noi subiamo anche una concorrenza sleale, pur in un momento di crisi dobbiamo tener conto che quattro regioni in nord Italia producono ancora oggi più 2% di PIL della stessa Germania, sulla quale tutti fanno capo. Ma c'è una situazione di soffocamento totale data dalle tasse, dalla tassazione che c'è oggi in questo momento. Allora, se noi pensiamo che c'è una tassazione diretta del 54% e una indiretta che arriva circa l'11%, ma la via d'uscita è questa. Aziende, sì, ma la via d'uscita... In Slovenia, no, mi permette, sì, dottor Milla, mi lasci finire. E in Slovenia, e in diciamo, parlo di Europa, quindi senza confini. No, ma è chiaro, in Austria. In Slovenia, in Carinzia, in Austria, eccetera. Arriviamo a un 24%, lei capisce che un'impresa... E questo è un problema, ma questo sicuramente è un problema. Ma è una concorrenza, sì, ma è una concorrenza. Ma no, ma è un problema reale, infatti molte imprese se ne vanno. Però ma la soluzione è la secessione morbida, come dire. No, ma la soluzione purtroppo è quella di poter lavorare senza essere praticamente inseriti in questo contesto, pur riconoscendo ovviamente tutta quella che è la concorrenza oggi, ma se noi dobbiamo pagare a questo Stato che continua a fare buchi di miliardi e che purtroppo non va alla spesa corrente, no, ma io capisco il problema, si rifugia ancora nella spesa storica, allora... Va bene, ma come dire, lei ha messo il termometro... Ma d'accordo, però mi scusi Gobbo, lei ha messo il termometro e ha misurato la febbre, ma le chiedo, la risposta a questo problema che c'è è la secessione morbida, come dice lei, per esempio, un'ipotesi? Ma un'ipotesi è certamente anche la secessione o la formazione di macro regioni, come da resto era nel progetto iniziale della Lega, quello perfetto. Bossi e Miglio, quindi non vedo quali... No, quali ma infatti è mica logiche. Noi, io credo invece che in Italia, cioè parlando di economia, parlando di soluzioni, potremmo essere forse anche meglio della Svizzera, facendo un punto di riferimento che è appunto una situazione di confederazione. Se noi pensiamo all'altissima qualità che possiamo avere nei prodotti, ad esempio gastronomici, in quello che è l'allevamento, in quello che è il turismo e la cultura, in quello che è soprattutto il mare nostrum, chiamiamolo, che coinvolge ovviamente tutti questi chilometri di coste, non si è incentivato assolutamente. No, ma lì sono le politiche sbagliate. Però Gobbo, mi faccia fare. Ma certo, la soluzione va che abbiamo 4,5 milioni di statali che purtroppo certamente non sono produttivi. Ma ascolti, allora oggi ascolti Oscar Giannino, che invita il sindaco di Villafranca, credo che vuole licenziare qualcuno dipendente. Certo, questa alle 9, ne parlerà Oscar Giannino. No, mi faccia fare due flash. La prima è questa, ma quindi la tentazione che anche Maroni ha detto non andiamo più in Parlamento, secondo lei bisognerebbe perseguirla, cioè la Lega l'anno prossimo, alle prossime legislative, non si va in Parlamento? No. Sì, io sono proprio uno di quelli, essendo dal 1980 in Liga Veneta, quindi qualche anno sulle spalle ce l'ho, che tra parentesi non mi sono mai candidato. Lei non ci andrebbe mai. Non è questione di andarci o non andarci. il problema è un altro, cioè è prima il territorio, ma non per andare contro gli altri, anzi, ma se capiamo che determinate situazioni frenano il tutto, ma anche l'evoluzione stessa della società, bisogna pur metterci un freno e cominciare, cioè non possiamo più andare avanti con queste situazioni. Prima priorità allora, al territorio. Se lei mi dice ma quali sono le proposte, io le dico ma una proposta possono essere anche le tre macro regioni, una proposta può essere un'economia differenziata dove ovviamente si rilancia ad esempio, parlo del nostro sud Italia con il turismo, con la pesca a livello qualitativo, con l'agricoltura, con le nuove. Si puntare su questo. No, mi faccia tornare indietro perché devo andare in pubblicità, ma mi faccia fare questo flash, mi dica solo sì o no. Ma è vero che lei ha cercato Saviano per qualche iniziativa? L'Espresso titolava così, anche Gobbo in passato ha cercato di coinvolgere Roberto Saviano. Sì, agli inizi certamente. Cioè, sì, che voleva fare con Saviano? No, ma assolutamente noi si cerca sulla società civile, diciamo che Saviano ha avuto il coraggio di, attenzione, non è solo Saviano, perché parliamo di no, ma lei lo cercò perché? Purtroppo parliamo di un monumento funerario delle vittime della mafia che va da anni e anni e anni, e quindi di questo certamente bisogna dare atto, ma che comunque è stato un volto nuovo che effettivamente ha portato. No, ma questo ma lei l'aveva cercato per che cosa? Cioè, per che tipo di iniziativa? Cosa pensava di fare con Saviano? Ma no, era quei tempi in cui si cercava ovviamente un contatto e che si potesse appunto parlare di mafia specificamente, visto che uno dei primi manifesti nostri della Liga Veneta, parlo degli anni 80 ancora, era quella alt all'invio dei mafiosi, perché ricordo la legge del soggiorno speciale era quella che ci ha invaso in tempi in memory, anche di mafiosi. Non per dire che i nostri siano fior d'angeli, perché abbiamo avuto appunto, parlando di angeli, abbiamo avuto Maniero, quindi sappiamo bene. No, però insomma ci fu questo approccio con Saviano. Va bene, io la ringrazio, sindaco, per essere stato con noi, Gianpaolo Gobbo.